Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Lunigiana con Valerio Varesi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dopo tanti scrittori che mi hanno scarrozzata per i 5 continenti, sento il bisogno di fare una capatina nel nostro paese prima di riprendere il cammino che mi porterà in giro con nuovi compagni di viaggio. L'occasione mi viene offerta da Valerio Varesi, un autore che, come tanti altri, mi è venuto a trovare al Salone del Libro di Torino. Quando gli chiedo dove andiamo nella nostra chiacchierata, dalla sua bocca esce un suono che sembra quasi parte di una formula magica. Lunigiana. Nome Lunigiana. Confini. La Lunigiana è la regione all'estremo nord della Toscana, racchiusa dall'Appennino, le Alpi Apuane e il Mar Ligure. Clima. Il clima e la temperatura in Lunigiana sono fattori molto variabili, dipendono dalla zona in cui ci si trova, i contrafforti appenninici, la Val di Magra o la bassa Lunigiana verso il mare. Le condizioni climatiche possono comunque essere definite di transizione tra il clima mediterraneo e quello di montagna delle zone temperate, con una notevole quantità di microclimi. Come arrivare? In automobile è raggiungibile da nord attraverso l'autosole A1 fino a Parma e quindi l'autostrada della Cisa A15 Parma-La Spezia. Il primo casello che si incontra è Pontremoli e poi Aulla fino ad arrivare a Santo Stefano Magra e Sarzana. È anche possibile prendere la A7 Milano-Genova e collegarsi quindi con la A12 Genova-Livorno. Da sud la Lunigiana è raggiungibile attraverso l'autosole A1 fino a Firenze e poi con la Firenze Mare A11 e la Livorno-Genova A12 collegandosi con la A15. In treno, da nord, è possibile arrivare a Pontremoli e Aulla con il treno Milano-Livorno, oppure cambiare a Parma e prendere la linea ferroviaria La Spezia-Parma. In aereo, l'aeroporto più vicino è l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. Anche gli aeroporti di Firenze e Genova possono essere usati per arrivare in Lunigiana. E che Lunigiana sia, allora? Improvvisamente, quasi fossi vittima di un incantesimo, mi estraneo dai rumori della fiera e mi faccio trascinare dalla voce di Valerio in questo luogo poco conosciuto, in questa terra di mezzo, mi verrebbe da dire, tanto per rimanere in tema di favole. Beh, è abbastanza naturale compiere questo viaggio che dalla pianura padana, da una città come Parma, va verso il mare, e in questo caso il Mar Ligure è quello più vicino a questa fetta d'Emilia. E quindi a valicare questi Appennini, che sono una catena abbastanza impervia e segnano un confine, da una parte un confine e dall'altra però uniscono le due sponde, perché è un confine in quanto da una parte c'è un clima, dall'altro ce n'è un altro, e quindi questo si sente, è un passaggio proprio di stato fisico, salendo da Parma, partendo dalla nebbia, dal freddo, salendo si abbandona la nebbia, si arriva sui monti dove è tutto più chiaro ma anche più freddo con la neve, e poi ci sono queste due gallerie di valico lunghissime attraversando le quali si sente già un vero cambiamento persino stando in macchina. E dall'altra parte invece trovi molto più facilmente, che so, la neve scompare dopo un po', il sole, il caldo, almeno 7-8 gradi in più, e una vegetazione che è completamente diversa. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Come mai una canzone su Genova, visto che siamo in Lunigiana, vi sarete chiesti? Ma il mio accompagnatore dà subito una spiegazione. Perché è come racconta Paolo Conte in questa canzone Genova, no? Dove dice questo mare che si muove anche di notte non sta fermo mai. Ci fa un po', ci mette un po' ci rende un po' strano questo mondo acquatico, diciamo. E quindi c'è una differenza anche poi di spazi, perché gli spazi sono molto più dilatati nella pianura rispetto invece, che so, alla costa ligure o alle montagne della Lunigiana. Quindi capisci anche la differenza urbanistica della struttura delle case, delle corti, sono certamente di meno generose. Però allo stesso tempo, dicevo, c'è questo confine, ma c'è anche una capacità di unire, perché il passo della Cisa, o comunque questo valico, è stato per anni un passaggio nel quale si sono avvicendate tantissime persone, tantissimi viaggiatori con motivazioni diverse. Valerio comincia a introdurmi emotivamente a questo cambio repentino di paesaggio, che è poi l'obiettivo di questo viaggio. Sperimentare, nello spostamento fisico, uno spostamento spirituale. Cercare nell'ambiente che cambia sotto ai nostri occhi un cambiamento anche nella geografia della nostra anima. I pellegrini, per esempio, e lì c'è la via Francigena, quindi pellegrini che scendevano dal nord Europa, attraversavano l'Appennino e scendevano verso Roma. Non a caso, per esempio, il santo patrono di Parma è Sant'Ilario da Poitiers, perché si dice, la leggenda racconta, che si sia fermato lì a Parma a farsi risuolare le scarpe dopo aver camminato tanto. Quindi questa via che è un passaggio, poi è la via della transumanza. I pastori che d'inverno tengono i loro greggi nella parte a sud, nelle sponde a sud dell'Appennino, verso il mare, dove il clima è certo più favorevole, poi nell'estate sconfinano, passano scollinano e tornano verso la pianura padana, verso l'Appennino, che nella parte a nord è più fresco e più ricco d'erba. Quindi c'è questo passaggio continuo da una parte all'altra. Il movimento è inteso come crescita e non solo come spostamento di corpi per i pellegrini. Il movimento come forma di sopravvivenza per i pastori e le loro greggi, inseguimento di ciò che la natura esige. Ma essere terra di mezzo, con tutto il mistero che avvolge il passaggio da un orizzonte a un altro, non può non comprendere anche un movimento di merci e di ideologie. È stata terra di partigiani, la Lunigiana lì passava la linea gotica, quindi dopo l'8 settembre 43 lì si è creato, specie nel 44, che è stato l'anno più terribile di scontri, ci sono state veramente terre, lotte e anche stragi, anche eccidi che sono rimasti tristemente nella nostra storia. E poi è la via dei contrabbandieri, è la via degli scambi commerciali, da dove dal Tirreno arrivavano, che so, l'olio, il sale, e dalla pianura padana i latticini, il burro, cioè le carni. Non a caso lì ci sono tante le vie del sale, per cui tutti i cariaggi percorrevano, e fin dagli antichi romani c'era quest'idea di costruire una strada che collegasse il Tirreno con la via Emilia padana, e poi divenne quella strada, insomma, credo che coincidesse col Cerreto, col passo del Cerreto. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos. Alle belle città da te nemico, fuggimmo di su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Lunigiana con Valerio Varesi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Come in una favola, mi è bastata una parola che sa di formula magica per ritrovarmi all'interno di un incantesimo. Quella parola è lunigiana. E io sono con Valerio Varesi alla scoperta di questa terra di mezzo tra l'Emilia e la Liguria, tra la pianura e il mare, tra la realtà e l'immaginazione. E poi un'altra cosa che colpisce è proprio questa continuità che a volte si instaura tra il mare Ligure e la parte di Emilia, non solo d'Emilia, anche della bassa Lombardia, perché non a caso anche politicamente tempo fa nacque questa idea di creare una regione autonoma che si chiamava Lunezia e che avrebbe dovuto mettere assieme le province basso-lombarde come Mantova e Cremona, Parma, Piacenza, forse Reggio Emilia e poi una parte Massa Carrara e una parte di La Spezia, che avrebbe in qualche modo anche dal punto di vista amministrativo prodotto questo corridoio tra la pianura padana e il Mar Ligure e il Mar Tirreno, insomma. Se devo essere sincera, anche Lunezia non è male come parola. Meno magica di lunigiana e forse più adatta al nome di una regina delle favole, più che a un luogo. La lunigiana ha la caratteristica di tutte le terre di passaggio, cioè la caratteristica di essere un angolo appartato d'Italia. La lunigiana, ma anche la garfagnana, forse perché, a parte l'autostrada, che comunque è un'autostrada che collega e porta in due punti precisi, uno è il mare, l'altro è la pianura, e forse questa strada attraversa la lunigiana, ma nessuno si ferma lì, insomma, quindi non porta turismo, non porta nessun valore aggiunto di altro genere, per cui la lunigiana è un po' dimenticata, ma in questo essere dimenticata è bellissima, perché appunto è rimasta intanto scarsamente abitata, a parte i centri, ma è rimasta in qualche modo intonsa, insomma, con i boschi, con l'Appennino, con i monti. Da una parte ci sono le Alpi Apuane, dall'altra c'è la catena dell'Appennino, insomma, e quindi è una di quelle terre più in piccolo, un po' come le Marche, per intenderci, no? Le Marche sono attraversate, perché o ci si ferma in Romagna o si va in Abruzzo, in Puglia, sul Gargano, e le Marche sono bellissime, vengono passate via in un'autostrada, salvo il Conero, che è diventato un centro anche per il turismo. Sarebbe da parafrasare un verso della Divina Commedia: guarda, passa e ragioniam di lor. Parliamone di questo luogo, fermiamoci. In fondo, il piacere del viaggio è il viaggio stesso, non è la meta. Anche se la meta, per chi viene dalla buia pianura padana, come dirà poi il mio accompagnatore, è la luce del mare di Liguria. Siamo gente della Liguria, gente da questa. Perché abbiamo un mare davanti e i monti delle schiene. Siamo gente della Liguria, gruppi da maina. Anche quelle barche dritte, fette per tornare. La gente di Liguria, come canta Vittorio Descalzi, è figlia di una terra dura che non regala niente. Ma, aggiungo io, una terra meravigliosa che migliaia di visitatori invadono ogni anno. Secondo Valerio Varesi è anche per questo che l'accoglienza è diversa rispetto a quella della gente di Lunigiana. Conviene proprio fermarsi, perché credo che in Lunigiana la gente è molto accogliente, proprio perché non è abituata ad avere tante persone, non ha questo senso di respingimento nei confronti del turista, cosa che invece magari un po' si sente in Liguria, proprio perché gli spazi sono pochi e la gente che va lì è tanta, quindi c'è questo senso quasi di soffocamento. Invece in Lunigiana c'è molta accoglienza, sono molto cordiali, sono quasi, come dire, anche orgogliosi di mostrare una terra che è poco conosciuta e che peraltro è bellissima, quindi vale la pena anche perché tra le altre cose magari una sosta vale una pausa gastronomica con i testaroli, con tutti questi piatti che loro hanno e che sono tipici della Lunigiana, per cui sicuramente per uno che passa di lì varrebbe la pena, che so, uscire dall'autostrada anziché fiondarsi al mare immediatamente e fermarsi in qualche centro, che so, a Pontremoli o ad Aulla. Io sono già uscita dall'autostrada. Che ci faccio in mezzo alle auto quando posso godermi un piatto di testaroli cotti sotto la cenere e conditi con pesto oppure olio d'oliva e pecorino grattugiato? A piedi la cosa migliore sarebbe percorrere la via Francigena, quei pezzi che sono rimasti e che sono percorribili lontano dal traffico, ce ne sono, a partire credo dalla parte di Parma, dal passo della Cisa e oltre, e quindi quello sarebbe sicuramente un viaggio. È chiaro che una terra la conosci viaggiando a piedi sostanzialmente, cioè il viaggiare lento ti fa assimilare le suggestioni del paesaggio e ti fa anche gustare particolari che in macchina assolutamente non vedi. Io credo che i milanesi o i torinesi che vanno al mare in Liguria passano di lì e però non colgono nulla, proprio perché l'autostrada è un passaggio in velocità, tra l'altro in un corridoio che non è neanche il più significativo, mentre con lo zaino in spalla uno percorrendo la via Francigena può sentirsi un po' pellegrino e quindi anche poi divagare e concedersi delle parentesi in posti che sono molto più piacevoli, proprio perché sono posti che sono rimasti così com'erano, insomma. Magari a me piace molto, quando vado in questi luoghi, fermarmi a mangiare nelle osterie dove mangiano i locali, oppure dove mangiano quelli che passano di lì per mestiere, non dico i camionisti perché lì le strade sono strette, quindi, però che so, i muratori oppure qualcuno che è lì, insomma, per lavoro e che va a mangiare in queste osterie dove si è mantenuto qualcosa di autentico, no? A differenza invece dei posti magari sulla costa dove tutto è standard, qualche volta addirittura anche il cibo, purtroppo. Camminando per di qua, noi stiamo cercando l'oro. Stamattina in verità ho tentato di partire solo. Com'è caldo questo sole, ormai siamo una lunga fila, anche se in verità volevo proprio partire solo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Lunigiana con Valerio Varesi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, stagger back again. Sto camminando in compagnia di Valerio Varesi per le strade della Lunigiana, terra di confine tra l'Emilia e la Liguria, dove questo passaggio inevitabile dalla pianura al mare ha un significato che si potrebbe dire quasi mistico. Varesi mi ha portata qui perché il suo ultimo libro sul commissario Soneri è ambientato da queste parti, con tutto il significato che questo luogo porta con sé. Sì, il mio libro è solo l'inizio, commissario Soneri, e parla di un delitto che viene compiuto a Parma, che però ha degli addentellati sulla riviera Ligure, in particolare nella zona di Monelia e Levanto. Per cui Soneri è costretto a percorrere questo piacevolmente, perché lui è comunque attratto dal mare, anche se è un terraneo nel senso che dicevo prima. E quindi passando dall'Emilia alla Liguria vive questo cambiamento, che è un cambiamento di stati d'animo soprattutto, perché la nebbia è qualcosa che ti costringe a immaginare. Quindi non vedere vuol dire intuire, vuol dire avere fantasia per ricostruire. Non a caso la pianura padana particolare tutto l'asta del Po è caratterizzata da visionari, no? Dall'Ariosto al Folengo, a Guareschi, a Zavattini, persino Soldati, che non era, diciamo, di quei posti, era piemontese, magari aveva più i cieli più azzurri delle montagne, però quando viene lì nel 53 e fa questo viaggio comincia a immaginare anche lui. Come ogni favola che si rispetti, anche in questa ambientata in Lunigiana ci sono le tenebre che si squarciano e la luce che mostra un mondo migliore. E esattamente come nelle favole, è solo in questo passaggio incerto tra le nebbie che si conquista il tesoro. Questo è l'Appennino nel libro di Varesi. E quindi Soneri ha questa impostazione. Quando valica l'Appennino si trova la luce, si trova al posto della confusione dei contorni della realtà, trova invece la nettezza dei contorni e soprattutto trova la linearità geometrica di questo mare, che è una linea perfetta all'orizzonte. Quindi in qualche modo recupera questo esprit de géométrie che gli è utile anche per dipanare il suo delitto, insomma. La luce e la geometria e la linearità del mare, e infatti lì lui risolve l'enigma che era cominciato nella nebbia. Ecco la geografia dell'anima che si modella su quella del paesaggio reale. Questo è il viaggio di oggi, le tenebre della nebbia padana disperse dalla luce del mare di Liguria. Quindi lo stato d'animo è proprio, deriva da un cambiamento che non è solo di temperatura, ma proprio di luce e anche di paesaggio, sostanzialmente, di colori. Cioè, la pianura padana d'inverno non ha tanti colori, c'ha il grigio e poi c'ha l'erba stenta, oppure quando nevica c'è la neve, ma la Liguria ovviamente già a febbraio-marzo ha già i fiori, c'è soprattutto questo blu mare, il colore delle rocce, il colore delle case, è un elemento che arricchisce sicuramente la vista, e non solo la vista, certo, poi alla fine diventa poi una cifra del nostro guardare il mondo. Lo sai cos'è cattivo e cos'è buono? E quindi insomma c'è tutto un insieme di cose che fanno proprio, forse per uno che abita nelle città e in una città di pianura è una sorta di epifania, di qualcosa, si risvegliano, che so, dei sensori in sonno quando si va lì, no? E quindi è una sensazione piena che ti dà, almeno nel mio caso, io lo guardo con una sensibilità da impressionista, cioè per pennellate, per colpi di luce, di colore, di profumi, e quindi ne restituisco, come ho fatto credo nel libro, non una visione dettagliata, come potremmo dire, fotografica, ma invece una visione così per colpi, insomma, per flash. E credo però che sia una di quelle cose che coinvolgono più il livello emozionale, no? Rispetto a, addirittura più emozionale rispetto all'ambiente che mi è più familiare, proprio perché quello invece lo conosco quasi dal punto di vista tecnico, no? Nella sua, e qua invece la sorpresa ti dà sempre delle visioni e delle prospettive che non avresti immaginato. Gli chiedo se secondo lui c'è bisogno di essere dei viaggiatori particolari per avvertire tutta questa vertigine nel cambiamento sia geografico che emozionale. No, io credo che succeda anche al viaggiatore classico. Ovviamente, insomma, un dato di fatto è la sensibilità che uno può avere. Però parlando con molte persone che fanno spesso questo passaggio, ho intuito, insomma, mi hanno confessato che anche loro sentono più o meno delle cose analoghe, quindi percepiscono questo mutamento. E un buon compromesso sarebbe scollinare attraverso uno dei passi, cioè non prendere l'autostrada ma inerpicarsi con molto tempo e un po' di pazienza e possibilmente fermandosi per evitare di vomitare sui tornanti per chi è un po' sensibile, percorrere questi passi che può essere il Cerreto, può essere Cento Croci, può essere il Passo della Cisa, può essere il Bocco, quello purtroppo tristemente famoso per il ciclista morto. Sono passi che richiedono lentezza, richiedono pazienza, però regalano quella, restituiscono quella visione del mondo interno a questa fetta di territorio che l'autostrada non consente. Primo per la velocità, secondo perché sceglie passa dentro una valle e poi taglia le montagne, le buca e non ci passa sopra. La lentezza è la misura del tempo. Un tempo che da queste parti si consuma come nelle favole, a salti improvvisi e poi lenti, nella frenetica immobilità di un paesaggio che da sempre vive il piacere della pazienza. Ti giri e cerchi di parlare, da quale sogno vuoi tornare, da quale angolo lontano, ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Lunigiana con Valerio Varesi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono in Lunigiana, terra magica a metà tra le tenebre della nebbia padana e la luce del Mar Ligure. Terra di passaggio per merci, uomini, idee, ma soprattutto stati d'animo. Valerio Varesi mi ha condotta qui, passando dall'Emilia alla Liguria, sconsigliandomi da uomo terraneo, come si è definito lui, di fare il contrario. E il suo consiglio non è solo di direzione da est a ovest, ma anche di lentezza. Quindi questi vecchi passi, che poi sono antichissimi, sono appunto le vie di pellegrini, sono un buon compromesso per chi non vuole andare a piedi, farsele anche in macchina, magari fermandosi spesso sia nel versante emiliano, dove ci sono comunque dei centri molto belli da visitare, sia sul versante invece della Lunigiana, dove ci sono posti altrettanto belli, e quindi assaporare un po' questo paesaggio, immergersi, cioè non percorrerlo in velocità, ecco, ma proprio indugiare. Bisogna indugiare proprio come fa la strada, con questo salire e scendere ozioso, apparentemente ozioso, che richiede, come dicevo, molta pazienza, molta attenzione e, come dire, dedizione, no? Però insomma poi alla fine uno ne recupera in sensazioni. Indugiare come fa la strada che si inerpica sull'Appennino è il modo migliore per godersi questo viaggio nell'anima. La storia che vi narro è una storia originale. Invece per chi c'è nato, la nebbia è qualcosa di veramente poetico, io credo che le città come la mia, come Parma, ma come città padane, senza la nebbia non siano le stesse, proprio per la sensazione che il paesaggio e il colore, l'oscurità o la chiarezza ti danno, insomma. Quindi ecco, il passaggio inverso secondo me è una perdita. Ci sono addirittura a volte dei casi che mi hanno raccontato estremi, no? di chi parte dalla Spezia, dove c'è un sole, magari ci sono 10 gradi, poi passa queste due gallerie di valico e si trova dall'altra parte la neve, e quindi diventa un passaggio di temperatura brutale che non è forse il massimo. L'Appennino sulla Cisa appariva ancora più impervio salendo dal mare. In prossimità del passo la valle stringeva e i monti si avvicinavano come ombre minacciose di sicari. Poi il ventre della montagna l'aveva inghiottito e all'uscita lo aveva accolto un mondo di vetro con la trasparenza opaca del ghiaccio. È così che nel suo libro «È solo l'inizio, commissario Soneri», Valerio Varesi descrive il passaggio inverso che lui tanto sconsiglia. Però la nebbia ha il suo perché, non c'è che dire, se non altro come fertilizzante per l'immaginazione. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. La lunigiana con alle spalle il mistero della nebbia padana e di fronte la geometria della luce del mare è davvero un luogo incantato. Dopo tutti questi cammina-cammina fatti in compagnia di Varesi e per un tratto anche del commissario Soneri, il protagonista del suo libro, mi viene voglia di fare una domanda sui libri e la lunigiana. Ecco, ha questa caratteristica che la mantiene peraltro bellissima, secondo me, tra l'altro anche culturalmente molto viva, perché bisogna ricordare che ad esempio a Montereggio, dove c'erano i librai che si ritrovavano su questa piazza, da lì è nato il premio Bancarella, che adesso diciamo ha come fulcro Pontremoli, però è un premio nazionale, quindi c'è questo commercio di libri e di cultura che caratterizza anche un po' questa regione. Beh, è un bel connubio. Sembra quasi di chiudere il cerchio. E visto che siamo in argomento, voglio sapere quali libri di viaggio sono stati importanti per Valerio. Ma guarda, l'influsso più forte che ho avuto nel leggere un libro e nel desiderare un posto è Kafka e Praga. Lì veramente io ho sognato la città, me la facevo raccontare e ogni racconto mi restituiva una Praga sempre più immaginaria, sempre più mitica. E poi ho letto questo libro bellissimo di Rippellino, Praga Magica, e la sensazione, il desiderio è cresciuto ancora. Finché l'ho visitata e in effetti sono rimasto incantato da una città che unisce una grande stratificazione di storie, quindi di luoghi, di culture, ha una bellezza, quella la Praga antica, una bellezza straordinaria, questo senso di magia, di mistero che conserva tuttora. Come diceva Salgari, i libri sono un lungo viaggio senza il peso delle valigie. In Italia invece un luogo che ho mitizzato è forse perché io sono nato a Torino, poi mi sono trasferito molto piccolo a Parma. È un po' il Piemonte, ma non tanto Torino, che per me è una città nuova, visto che sono tornato molto dopo, ma soprattutto il Cuneese, dove sono ambientati, dove hanno scritto degli scrittori che per me sono molto importanti, come soprattutto Fenoglio e Pavese. E allora lì, ritornando dopo aver letto i loro libri nelle Langhe, ho capito effettivamente qual è la magia delle Langhe. E devo dire che le ho scoperte uguali a come le descrivevano, con la stessa capacità di fascinazione, e come anche in questo caso vale il discorso della lunigiana, mi sembrano uno di quei luoghi molto più valorizzati certamente, però sono luoghi poco abitati dove effettivamente percepisci ancora un qualcosa di selvaggio, un qualcosa di peculiare. Lunigiana, posto selvaggio che svela al viaggiatore il piacere del passaggio, del durante, del mentre, vera anima del viaggio molto più della meta. Un luogo magico non solo per il nome, ma anche per la sua posizione. Uno di questi posti davanti al mare di cui è piena l'Italia e di cui dovremmo più spesso nutrirci. Ora Valerio Varesi è in libreria con È solo l'inizio, commissario Soneri, edito da Frassinelli.